Live in direct per l'ennesima puntata di Underground Pusher, direttamente dalla cabina della radio, Radio ZM, zona autonoma Milano, collettivo ZAM nel posto, Milano Sud, abbiate grasso. Questa è una puntata specialissima perché è la nostra prima puntata internazionale, giusto Gigi? Yes, Gesem. Gesem, allora, oltre alla consolidata coppia Partners in Crime formata da me medesimo e Gigi da Rimini, abbiamo oggi ai nostri microfoni Data Boy a Lucina Record e Mseco Uglo Caso. Yeah. Po, bella ragazzi, un saluto a tutti. Super team con i nostri tre amici sul divano a testare la comodità del divano, quindi Pulsar Uranio, Testa Mala e Chiara, che fanno gesti di apprezzamento alla grande, gesti rap di apprezzamento, giustamente. Allora, come dicevamo, abbiamo fatto tantissime puntate già con interviste, ma questa è la nostra prima puntata internazionale, quindi direttamente dal Perù, corso della tournée europea, giusto? Abbiamo appunto Mseco e faremo quindi una full immersion nella tua musica e nella musica della scena del Perù. Abbiamo già subito una traccia da mandare, così presentiamo un po' il suo gruppo. Allora, prima traccia che mandiamo è Uglo Caso Rimas. Da Perù più motherfucker soy. G, the smart puro. What? Le mouth Perù. Al momento de que sepa lo que Lobo está haciendo, sabe que me desenvuelvo como si fuera un Nintendo. UG lo trajo, solo se está expandiendo. Lo sueño, lo visiono, lo obtengo y lo mantengo. Sabes que fundamento cuando escuchas el acento. Tuve un contratiempo y ya llegué por mi asiento. Subo y disparo barras como armamento. Un animal del tempo, empiezo y no me detengo. Tengo la muestra y el peso metido en los sesos. Y aparte un DJ bueno que complete el suceso. Varios se quedaron, no aguantaron el proceso. Y ahora que todo camina, quieren darse un regreso. Cuando nadie creía, yo lo hice con esmero. Nadie me regaló nada, yo empecé de cero. A mí no me importa nada si yo cojo un lapicero. Se vuelve duradero cuando lo hace verdadero. Tengo rima pa' pisar su tarima. Y en la noche soy quien pongo los broches en la esquina. Los pacos lo alucinan. No es por pose, por si no nos conoces. Tengo rima pa' pisar su tarima. Y en la noche soy quien pongo los broches en la esquina. Los vagos lo alucinan. No es por pose, por si no nos conoces. De pequeño me decían que cambié ese camino, que dejé esas fachas, el barrio mal termino. Y ahora que crecimos dio la vuelta el destino y mueven la cabeza con el boom bap los primos. No saben de mi vida, ya habla más de lo debido. Ya la hora que termina, ya cumplí mi cometido. Estuve al borde de la ruina, hasta me dieron por perdido. Hagan ruido, sigo fiel a este sonido. Si es que gira el tornamesa, tenemos el control. Y no dejamos de hacerlo hasta que sale el sol. Traemos de eso que no encuentras y en español. Es el underground con zapato el charol. Salió del bajo mundo y ahora sabe su rumbo. Prefiero perder un minuto que ser falso un segundo. Muchos no recuerdan de dónde son oriundos. Angel hace un corte, quiero que cante todos juntos. Tengo rima pa' pisar su tarima. Y en la noche soy quien pongo los broches en la esquina. Los vagos lo alucinan. No es por pose, por si no nos conoces. Tengo rima pa' pisar su tarima. Y en la noche soy quien pongo los broches en la esquina. Los vagos lo alucinan. No es por pose, por si no nos conoces. E questo era Rimas di Uglo Caso, degli Uglo Caso. Quindi abbiamo una traccia introduttiva del gruppo. E appunto, sì, la prima domanda che volevamo fare al nostro ospite era come ti eri approcciato all'hip hop e la tua, diciamo, storia a livello crew come Ugro Caso e come rapper solista, diciamo, un po' il tuo percorso musicale. Ti do il microfono, Data. Yo empecé, ponte, en el 2000-2008 en el colegio haciendo graffiti. Poquito a poquito, con el tiempo, me empezó a gustar que lo que era freestyle, lo que era rapear. Y estaba escuchando, ponte, mucho rap peruano, mucho rap en español, rap de España, se escucha mucho ahí en Perú, y rap de Estados Unidos, o sea. Ok, cominciato nel 2008 appunto a scuola, ascoltando diversi tipi di rap, appunto veniva poi dalla Spagna, comunque tanto rap veniva dagli Stati Uniti, e quindi questo è il primo percorso iniziale. Poquito a poquito ero aprendendo, studiai produzione musicale, mi hice il studio musicale nella casa, Ugelo Caso partiò ahí, Ugelo Caso era il nome del studio. Y poquito a poquito, con los años, hemos sacado discos. Tenemos 11 discos hasta ahora, yo como solista. Hemos sacado ahora último un disco con mi grupo. Y bueno, ahora Ugelo Caso somos tres, que soy yo, Mseco, Fundamento Under, y nuestro DJ, que es Der Angel. Ok, lui ha cominciato quindi da giovane, e si è fatto appunto anche in uno studio, e da lì hanno incominciato appunto a registrare, e hanno fatto già 11 dischi, e la sua gruppazione che si chiama appunto Ugelo Caso, che vuol dire underground, pazzi, crazy, e fondamentalmente è composto appunto da tre persone: Fundamento Under, Fundamento Under e Der, DJ Der Angel. Der Angel DJ. Este track que acaba de sonar es nuestro primer single como disco. El disco ya está en todas las plataformas. Se llama The Peruvian Motherfuckers, DPM. Ugelo Caso, Ugelo Caso, DPM. A él se lo recomiendo. Ok, questo qua è il primo singolo del loro nuovo disco, che hanno fatto il loro primo disco, e quindi andate ad ascoltarlo, a cercarlo su tutte quante le piattaforme, perché appunto la prima track è stata uscita fuori dal disco nuovo, che è disponibile in tutte le piattaforme. Bless. Non quiero empezar sin antes mostrarle un poquito de hip hop peruano clásico. Hay un tema que justo le recomiendo, que es un tema del 2002-2003, se llama WhatsApp. Ok, cominciamo con un tema di rap classico peruviano del 2003 e si chiama WhatsApp. Hey yo, WhatsApp, huevón, que no sabes tú. Que si estás a mi lado nunca te faltará luz, porque yo alumbro, mi nombre es Taurus. The planet is full of cocaine from Perú, mi país de nacimiento, lo siento. Y es que dentro de mi sangre está mi talento. Soy peruano, soy latinoamericano, siempre que yo canto tú besas mi ano. Y es que cada año una cosa yo celebraré, que estoy arriba porque canto bien chévere. No me saco chudo que te saco el ancho, te quedarás muerto y yo mire tan yo, pancho. El maleante aparece como rabbit sin sombrero, robando lo que pilla, convirtiendo el freestyle en matadero. Con mis fierros yo los aplasto como perros, dejando los MCs con la moral por lo debajo. Carajo, al igual que Taurus no me bajo, razón por la que estoy rimando a destajo. Mi estilo es salvaje, perras y perritas escuchando lo que yo ahora te traje. Igual que en una fábula dejando el mensaje. Madafaka, la roca en tu nariz nunca se opaca, porque en mi boca no te toca, adormecida estará tu boca. Voy aplastando con mis Timberland todas las rocas, no te equivocas, nadie me para. Rápida, rimas disparadas, aquí no pasa nada. My people is malcriada, my people is malcriada. Sí. Chimpún, callao, estate callao, o te haré chimpún y yo te habré matado. Estás locazo, si a mis palabras no haces caso, te acercarás a mí, te llevarás un balazo. Manjas, aquí se fuma ganja, llevo el fierro con mi pinga pa' que juntos salgan y que disparen. cuando sea necesario. Uno apunta hasta tu 100 y otro hacia el ovario. No te pienses que soy ordinario, barrio, pues todo lo que te digo está escrito en el diccionario. Y si yo te digo que esto es peligroso, no querrás morir por ser un niño caprichoso, sonso. No seas cojudo, crees que me voy a bajar porque intentas ir de forzudo. I'm magnificent shot, you very strong, frente a mi weapon cañón, ¿eh? Aunque si quieres dejo mis juguetes, ¿eh? Y te inflo la cara patadas y puñetes. ¿Para qué te metes si no tienes vela? En este entierro el tuyo es mañana, no tardes porque te espero. Finges estar en la lista, pero solo llegas al fracaso del planeta Uranio. Cuidado con los aires que levantan la falda. Productor de mí si ponga la demanda. Salvemos el buceo de los scratch con más hip hop y menos círculos pitucos. Más retos y menos gestos. Menos papa Dios, matriz y mega y punto, no black ladridos. Los problemas auditivos que causan las mezclas. La calidad del oscuro en mi mano, venga, con magnum el trazo. Con pulso de buen brazo, carteja su rastro. Hasta que suene el claxon de los azules cascos. Guarda, Minotaurus vino con las faldas a la espalda. Megataurus, Jackson Cars. Entramos como fieras, ardiendo como calderas, matando como en la hoguera, enfriando como neveras. Quien busca tendrá candela, smoking hash y san hierba. Soy más light, you the people, san de san, le da la tierra. Aquí yo soy el que opera, king of the terrestre esfera. Of the rhyme verdadera, of the palabra sincera. I am king of the road, pero a mí nadie me pisa. Well alone with my young, to double the tower of Pisa. Ninguna risa, esto es tan serio como la misa. Pero revisa, si está your blood en my camisa. Sé una person lista, no estés en my blacklist. Voy 8 vista, duermo con un ojo abierto. Hay que estar atento en todo momento. Aunque sea un movimiento lento, puede ser algo violento. Yo ando bien armado porque sé lo que es el gueto. Cuido mi pellejo porque este cubre mi cuerpo. The King of Gold, si hablamos de dinero. The King of Sword, si estamos en el barrio. The King of Champagne Glass, en las discotecas. The King of the Hair, cuando estamos con las tetas. Las nenas empiezan a acariciar su raja cuando piensan en Taurus sin ropa y con sus alhajas. Yo acaricio a las mujeres suavemente, tiernamente. Yo la beso en sus hermosos labios. Soy cariñoso, pero a la vez soy del barrio. Si me pongo furioso, te mando un par de sicarios. One shot, two shot, the white, the wind blow. The love of the jungle is bitter than in dead you. I weaken person, cuando yo me molesto. A lot of people sufre cuando suelto mis versos. Don't fuck with me, that's a stupid thing to do. I'm from the street, y esto sí que lo sabes tú. Eyo! Yeah. E questo era WhatsApp di Taurus, Cars e Mega, boom bap peruviano, original, o no? Yeah. Ti è piaciuta Gigi? Spaccato, non l'avevo mai sentita, spaccato, spaccato di brutto. Visto? A lui gusta moltissimo il boom bap, al mio amico Gigi. E, allora, questo era un classico quindi del hip hop peruviano, giusto? Noi volevamo fare un'altra domanda, che era appunto: voi come UG Locaso siete indipendenti, vi autoproducete, avete un contratto major, e poi appunto come è sviluppata la scena hip hop peruviana, se appunto c'è molta autoproduzione, sono molte etichette indipendenti, sono molte major come qui in Italia, oppure se è un fenomeno più appunto indipendente. Ujalo Caso, como te digo, fuera de ser un grupo, también es un sello independiente que también trabajamos con mucha gente. Tengo el estudio en la casa y nuestra misión siempre ha sido el underground, por eso es underground Lo Caso. Con el tiempo ha habido mucha gente que hace boom bap, pero ahorita está en la movida, creo que es mundial, lo que es el trap, el drill, y hay mucha gente que lo deja de lado, pero también hay mucho mainstream ahí en Lima, hay muchos buenos grupos también, o sea, todo bien con ellos, pero nuestra misión es mantener el boom bap como es, el boom bap viaje a escuela, coleccionar discos, comprar tapes, soy coleccionista, ¿entiendes? Tengo vinilos, entonces el plan es ese, dejar el hip hop como es, porque todo te lo devuelve. Yo ahora estoy acá en Italia. Ok, allora ha detto che praticamente loro appunto, a parte essere un gruppo musicale, sono anche un etichetta indipendente, quindi producono diverse cose, merch, fanno diverse appunto iniziative, non soltanto appunto musicali, ma fanno anche cose per autoprodursi. E diciamo che un po' quello che sta succedendo a livello mondiale si ripete anche appunto in Perù, e adesso ovviamente va di moda drill, tutto quello che è moderna appunto, proprio dicendo, ma la loro missione appunto, come dice il nome stesso, Underground, Locassos, è effettivamente quello che poi è quello che vorrebbero fare, mantenere appunto questa cosa il più pura possibile, come si faceva una volta. Di fatto anche lui colleziona vinili, cassette, è comunque appassionato di come si faceva una cosa un tempo, e quindi per loro l'essenza è mantenerlo puro. Una domanda, ecco, un po' relativa a questa cosa qui, diciamo. In Italia ormai i rapper sono come se fossero dei nuovi calciatori, nel senso che molti giovani, anche senza essere mai stati appassionati, diciamo, di hip hop o di quello che gravita intorno a questa cultura, si interessano al rap come mezzo per la fama, per i soldi, perché comunque insomma anche diciamo la TV, i media spingono questa cosa qui del rapper ricco e famoso, e comunque l'hip hop è una musica molto proposta sui social come TikTok e anche nei club, insomma. Se ero curioso di sapere, ecco, se questa piega ci fosse anche in Perù, o se in Perù fosse ancora una cosa cioè legata anche a questo ambito, o se sia comunque in circuiti meno commerciali, più indipendenti. Competencia, mantengo una esencia que evidencia que aunque aquí se huele a violencia, nosotros no somos delincuencia y vas a caer, y tarde o temprano la gente lo va a ver, que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que no pueda sostener. Sí, en Perú el mainstream está fuerte, está sonando mucho, hay muchos buenos grupos de la música urbana de ahora, pero también ahorita estamos demostrando que con el hip hop se puede vivir muy bien. O sea, yo allá tengo el departamento, tengo la casa, tengo el estudio, pucha, tengo bien a mi madre, a mi familia, y estamos ahorita en gira en Europa. Entonces como que siempre hubo el pensamiento de que underground no se puede, o underground no, pero yo le digo underground sí. Entonces estamos lejos de casa representando, y el plan es yo ahorita ser la voz que si se puede del hip hop de allá de mi país, y demostrar que hay buen rap al otro lado del charco. Quindi lui non ha niente contro quello che succede adesso con il mainstream, dicendo che sta andando forte anche in Perù comunque, quindi il fenomeno si ripete anche da quelle parti lì, come si sta ripetendo qua. Però invece loro appunto, mantenendolo comunque sempre come senza boom bap classico, sta dimostrando che effettivamente si può fare anche da quel punto di vista. Infatti detto che succede che c'è una casa, c'è uno studio indipendente, sta stare bene di sua mamma, di sua famiglia, adesso in giro appunto qua in Europa, quindi diciamo che sta dimostrando i fatti che effettivamente con il rap boom bap si possono fare grandi cose, e soprattutto fa molto piacere essere qua per rappresentare anche al di fuori del proprio paese quello che è appunto l'essenza del rap boom bap e tutta la cultura che si porta dietro. Ok, perfetto. Allora, diciamo, sicuramente sono anche una bella cosa da sentire, o no Gigi? Perché anche qua noi abbiamo sempre spinto per l'autoproduzione, per l'indipendenza, esatto, Mister Data pure, e quindi insomma è bello sapere che si fa, cioè, in tutto il mondo ci sono i pazzi come noi dappertutto che si collezionano mille tape e mille tesori. Esatto. Un tema, un classico acá del hip hop de Italia, lo hemos grabado ahorita en Alucina Records, y creo que lo tienen ahí, sería chévere si pueden ponerlo para escucharlo. Allora, giusto, infatti, detto che a proposito di questo argomento qua, appunto, abbiamo continuato a portarlo avanti, e giusto oggi abbiamo fatto un tema nuovo, quindi è una roba fresca fresca di forno. Abbiamo prodotto una nuova traccia, quindi gustatevi questo mega inedito fra il nostro fratello Mseco e il mega mega prezi prezi in the place to be. Bless, bless. El santuario del micrófono. M-Seco, el presidata. Questa musica salva l'anima. Esta música te salva el alma. Questa musica salva l'anima. Entro nel santuario con il mega flusso. La rappo in spagnolo e anche in russo. Tremenda, tremenda è la mia merda. Salgo sul palco e il club si incendia. Tutti i click della city allerta. Stiamo connettando col Perù. Gli esploratori latini alla scoperta. Un ciupito di pisco lo butto giù. Uso la tecnica di M-Seco. Non resta neanche una goccia nel bicchiere. Noi siamo contrari allo spreco. In più far le rime bene è il mio mestiere. Grazie Sista che mi ha aspettato. Famosi nel mondo come il calcio. Costano oro le rime che caccio. Muovono il popolo verso l'alto. Questa musica salva l'anima. Questa musica che salva l'alma. Questa musica salva l'anima. Llevando legado, eso no saben que es visión. Esperan sentados, hay que tener más de una opción. Dentro del mercado, no comento, soy la acción. Te bajo de grado, sé que tengo condición para estar en Camaro, pero tengo otra ambición. Mis discos son caros, reconocen los que son. Saben en qué paro, pero nadie hace mención. Me muevo con bravos, voy andando lejos de donde he crecido. Con el tiempo le encontré estilo y sentido. Por Milano haciéndoles perder el partido. Les dejo los ojos red, el trofeo por kilos. Es que luego voy a hacer lo mismo que escribo. Ese tat del SP lo tiene prendido. Haciéndolo como es, junto a los antiguos. Y nos vamos otra vez con el efectivo. Esta música salva l'anima. Esta música te salva el alma. Esta música salva l'anima. Esta música te salva el alma. Questa musica salva l'anima. Questa musica ti salva l'alma. Questa musica salva l'anima. Questa musica ti salva l'alma. Lima, Milano. Oh ragazzi, posso dirlo? Volevo dirlo da sempre. Esclusivo. Mi sento come Funkmaster Flex. Più o meno, dai, con lo special. Con lo special. Più flex, flash, bellissima. Con un pilastro dell'underground come ESA. Con un pilastro dell'underground come Mr. Data. Ti è piaciuto fare questa collaborazione? Sí, muchísimo. Me gusta también conocer el hip hop de acá. Yo creo que justo Mr. Data me dijo que nosotros éramos ahorita la conecta entre Perú e Italia. Y poquito a poquito que la gente vaya escuchando la música de él, la música vieja escuela, la música nueva escuela de acá. Y lo mismo deseo que la gente de Italia sepa que en Perú se está haciendo las cosas chévere. Ok, gli è piaciuto tantissimo fare questa collab e difatti fare questi ponti fra Italia e Perù comunque è una figata e gli fa molto piacere anche il fatto di magari condividere il fatto di fare musica in modo tale che poi la gente di qua scoprirà la musica del Perù e magari chi è del Perù scoprirà la musica di qua facendo appunto, ascoltando questi vari incroci e andandosi a interessare di tutto quanto, quindi è anche molto curioso di conoscere anche quello che succede qua in Italia e per questo motivo qua sicuramente non sarà l'ultimo. Poi una domanda dalle retrovie, dal divano. Domanda dal divano. Domanda del pubblico, domanda di Testa Mala, che però è molto interessante. Volevamo. Dottor Testa Mala voleva sapere se. Il commendator Testa Mala voleva sapere. Se tu quando scrivi parti quindi dal beat, essendo anche un produttore, beatmaker, o se hai già un'idea di testo e del messaggio che vuoi veicolare e poi su quello strutturi il beat e scegli anche il campione. A mí me gusta jugar con eso, me gusta ponte, escribirlo en una pista. A veces, si no es pista mía, escribo en una pista en internet y siempre, todos los días, estoy produciendo beats, sacando beats, y a veces digo, oh, creo que en esta es. Entonces la practico en esa y de ahí me sale otra mejor y digo, no, en esta es. O sea, cada tema que voy soltando, lo practico como en 10 ritmos distintos. Y lo mismo también hago a la hora de trepar a tarima. Creo que cambiarle de pista siempre, o sea, te da ganas de rapearlo distinto, de hacerlo distinto. Entonces yo creo que eso también es un plus a la hora de rapear, porque te sentís más cómodo. Ok, quindi lui ha detto che in realtà per scrivere a volte usa non per forza un beat soltanto, ma magari comincia a volte anche con un beat scaricato, anche un beat da internet, poi da lì lui comunque produce tutti i giorni, quindi come producer appunto fa diverse cose e continua a cambiare, a sentire i beat, e quando poi ne sente uno che gli interessa per quell'argomento lì, magari quella canzone che sta scrivendo, allora lo usa. Però in realtà poi anche in situazioni tipo i live e altre cose, a volte cambia anche i beat per continuare, diciamo, anche a stimolarsi per fare, diciamo, magari lo stesso pezzo magari con un beat differente, e quindi ti piglia ancora meglio perché magari è ancora più bello il beat, e quindi è un auto, diciamo, motivarsi per continuare ad andare avanti cambiando a volte anche gli stessi beat per una stessa canzone. Diciamo, c'è anche una versione speciale, quella dei live. Cada live es un beat distinto, me gusta como que darle un toque a cada escenario, ¿no? Anche a me piace molto questa impostazione, questa scelta, diciamo, così c'è anche una sorta di cosa speciale per vivere quel momento lì. E, riguardo la collaborazione con ESA fa hip hop praticamente da sempre ed è uno dei padrini dell'hip hop in Italia. E volevamo chiederti, io ero anche curioso perché insomma non so molto, ecco, del Perù, da quanto tempo esiste l'hip hop in Perù, proprio inteso non solo come rap music ma come hip hop a 360 gradi, se le varie città suonano differenti tra loro, un po' come potrebbe essere New York, LA o Atlanta negli States, se la scena è unita o diciamo ognuno è più, diciamo, nel suo percorso individuale. E poi una cosa particolare, perché noi qua in Italia, parlando italiano, parliamo una lingua simile a quella dei paesi confinanti, ma poi alla fine ci riferiamo soprattutto al nostro paese. In Sud America si parla lo spagnolo, anche se magari in maniera un po' diversa tra stati, però insomma c'è una maniera, diciamo, di comunicare, diciamo, di capirsi tra paesi confinanti, no? Quindi se questa cosa qui ti permette di poter allargare un po' i tuoi orizzonti, qua in Italia si ha un pubblico molto ristretto per via di questa cosa. Mino pietà. El hip hop en Perú tiene muchos años, desde los 90. Desde 1993 salió el primer grupo, que se llama Golpeando la Calle, que era un grupo de breakers y también de MCs, también DJ Pedro, el primer DJ del hip hop peruano. El primer disco del hip hop peruano salió en 1998, producido por Drupi G, que el disco se llama Cadenas Invisibles. Y con el tiempo, bueno, o sea, a partir de eso ha habido una fuerte oleada en Latinoamérica en el 97, 98, un rap mexicano, rap chileno. Entonces como que se ha establecido también el sonido del hip hop peruano. Hay mucha vieja escuela, hay mucha gente que escucha los discos, han salido desde el 2000 para arriba, 2000 a 2006. Como que ha salido la vieja escuela que la gente que ahora empieza lo escucha. Grupos como Rapper School, Cayo Cartel, Fucking Clan, Teoremas, muchos grupos antiguos que también yo creo que siempre es parte. O sea, yo sigo el rap a pie de la letra y respeto a la vieja escuela, y saber de la vieja escuela es parte del camino. Ok, quindi ha detto praticamente che molto, molto di quello che arriva appunto al rap old school arriva tanto al rap cileno, rap messicano, e che attorno al 1993, sì, Golpeando la Calle, il primo gruppo. No, 93, Golpeando la Calle, il primo gruppo effettivo che è uscito via peruviano, e da lì in poi si sono sviluppate tante altre cose, quindi diciamo che poi sono andate anche dopo i Rap School, come magari conosciamo gli adesso, e altri gruppi un pochino più famosi che comunque stanno già girando, però fondamentalmente lui ha detto che rispetta molto quelle che sono le radici del rap latino, del rap in generale, peruviano, anche old school, e quindi appunto che porta sempre maggio dal punto di vista. Claro. No, eso me encanta. O sea, ahorita yo he estado de gira, he tocado en España, Sevilla, Barcelona, Madrid, Torino, París y ahora Milano el sábado. Y bueno, este sábado que viene tocó en Barcelona, entonces como que está chévere también conocer, hay mucha diversidad de ritmos, y con el tiempo nos estamos moviendo, ya tenemos años en esto, y a cada lugar se demuestra el respeto, y yo creo que esa es la ruta hip hop, respeto. Ok, quindi ha detto che effettivamente poi tutto il fatto di farlo in spagnolo l'ha portato a girare anche da altre parti, non soltanto in Sud America, che comunque anche in Sud America fa tantissime date. È appena tornato da, tra l'altro, una gira in cui è stato praticamente un mese in Messico, quindi ha girato tantissimo. E adesso appunto, grazie al rap, è venuto anche in Europa e ha fatto diverse altre date, non soltanto in Spagna, ma appunto anche qua a Torino, Milano e altri posti. Quindi adesso ne farà un'ultima poi per esempio a Barcellona quando tornerà, e quindi effettivamente lui dice che porta molto rispetto quando va appunto nei vari posti, e è proprio quello che vuole fare, perché è l'essenza di quello che è il pop underground. Ottimo, abbiamo una domanda dal divano. No. No, perché? Sì, voleva chiedere se... Ah, giusto, perché qui in Italia non parliamo solo in italiano. Mm-hmm. Ci sono tanti dialetti. Claro. Cioè, tante regioni, è come se ogni regione avesse una sua lingua. Mm-hmm. E tanti rapper, come ad esempio quelli di Napoli, rappano in dialetto, che è anche molto musicale, è un po' una tradizione che abbiamo anche in Italia, proprio come musica, diciamo, tradizionale, e l'hanno portata nel rap. Quindi appunto lui voleva sapere se anche in Perù c'è una cosa del genere, cioè se c'è solo lo spagnolo o se ci sono anche dei lingue parlate, dialetti parlate locali, che poi vengono utilizzati anche nella musica. En Perú se escucha mucho, obvio, que el rap en nuestro idioma, pero la segunda música que se escucha es el rap de Estados Unidos, ¿no? Rap de New York, rap de USA. Eso también fue lo primero que llegó, ¿no? Con las películas, con los discos. Yo también me voy a lugares, no sé si ahora acá, claro, ahí encuentro discos muy baratos. O sea, también me gusta ampliar vinilos, ampliar cassettes, y todo eso viene de Estados Unidos, ¿no? O sea, llega allá, y creo que es parte en todo el mundo, ¿no? O sea, creo que acá también he ido a tiendas de discos y hay mucho rap en inglés, ¿no? Pero yo creo que la segunda lengua fuera del español en el mundo hip hop es el inglés, ¿no? Claro. Hay muchos también, ponte, fuera del español, en Perú hay muchas lenguas antiguas, lenguas hasta desconocidas, hasta ya olvidadas. Pero también hay mucha gente rapeando en quechua, en aymara, que son lenguas latinas, o sea, Latinoamérica, y hay varios países como Bolivia, Colombia, entonces hay varias lenguas allá que se muestran, y poquito a poquito hay gente que también rapea en eso. Punto detto che oltre appunto il fatto di dire che c'è sicuramente, a parte lo spagnolo, ma anche l'inglese come lingua molto ascoltata, chi fa questo tipo di musica, ci sono poi anche alcune variazioni come appunto lingue più antiche, alcune anche dimenticate, comunque di queste, quelle che sopravvivono sono il quechua e l'aymara, che vengono effettivamente adesso riscoperte, utilizzate per fare rap, e mettono in comune comunque anche diversi posti, come per esempio anche la Bolivia, altri posti che magari hanno un differente tipo di quechua, ma comunque che vengono utilizzati come lingua per esprimersi, e comunque sono le nostre lingue ancestrali, quindi qualcosa di veramente antico e secondo me anche da rispettare. Urca, vedi, questa no, giuro non lo immaginavo, quindi ottima domanda, hai visto, è stata soddisfacente? È il nostro amico. 50 euro, sì. Allora mette sul conto. Ahí estén atentos a la página que les voy a dejar varios links y varios temas de rap peruano y rap en los idiomas que se puedan. Ok ragazzi, comunque guardate un po' i link che vi linkeremo in descrizione, perché appunto vi passeranno un po' di dati interessanti, un po' di gruppi interessanti da ascoltare se volete poi comunque approfondire tutto quello di cui stiamo parlando. Como te digo, Hello Caso, somos dos y el DJ, y mi compañero se llama Fundamento Under, y este tema justo se lo produje yo también, el beat es mío, la producción es mía, y se llama Mike's. I'm a face to face rhyme by rhyme, like the old school, the type of nigga that don't give a fuck a hoot you all homes. Shit is real, nada me asombra, el mundo es un negocio y los peces ya no nadan, te devoran socio. No creo en nada, casi todo está comprado. My life is like a contract, me quieren adoctrinado. Latinos in the hood, well they just wanna kill. La industria les lavó el cerebro y todos se creen ill. Fuck this world, sobrevives o no vives. Aquí nadie regala, le das lo que recibes. One verse, one love, one mic, I'm like el alma de Chris Rivers, empuña mi mic. Alright, I got no price, de apariencia no nice. No need exercise, no views, no likes. Cada vez más honesto, hasta con mis vocales. No lo esfuerzo, soy espeso, mis rimas son naturales. Cuando cojo el mic, you niggas got no light. Your time is up, boom bap survives. Cuando cojo el mic, you niggas got no light. Your time is up, boom bap survives. Cuando cojo el mic, you niggas got no light. Time is up, boom bap survives. Cuando cojo el mic, you niggas got no light. Your time is up, boom bap survives. Con los pies sobre la tierra me mantengo siempre tight. El mic no me falla, talla XL right. Bebo ron all night, don't fight con el psych. Vine a aterrizarlos porque todos vuelan high. Las voz autorizadas, niño mejor cierra el pico. Sin tener muchos plays, con dos líneas los complico. Sigo el legado, classic shit is timeless. Los niños ya crecieron, ya está scooping drumless. Traje caleta rap de mi ciudad feca. El flaco repartiendo rimas, microphone checa. Habilidad genuina, hip hop es mi biblioteca. El swing latino, ritmo y contenido, das guarema. Lo que no sale en la radio, y tanto adversario y tanto comisario quieren robarme el salario. Mi meta es decir algo en el escenario que produzca un cambio en esta sociedad de puros mercenarios. Ya que la city anda cínica ante tanto healing. Mucho feeling que no anda chill y termina en graffiti. Mi puerto anda en healing, nigga ain't no kidding. Muchos quieren ser P. Diddy, pero no tienen a Biggie. Que suene under, no importa donde sea. Mientras explote el bajo, al carajo lo que sea. Seguiré sonando en la calle aunque no quiera. Y seguirá temblando tu puta disquera. Fundamento under, coge el ocaso. Immortal raps. What? Cuando cojo el mic, you niggas got no light. Your time is up, boom bap survives. Cuando cojo el mic, you niggas got no light. Your time is up, boom bap survives. Cuando cojo el mic, you niggas got no light. Your time is up, boom bap survives. Cuando cojo el mic, you niggas got no light. Your time is up, boom bap survives. Dum dum, el mundo es una fosa común. Cuando el tiburón te quiere convertido en atún. En las colmenas, agonizando bajo los zooms. Bajo las botas con betún del ciudadano común. Dum dum, el mundo es una fosa común. Cuando el tiburón te quiere convertido en atún. En las colmenas, agonizando bajo los zooms. Bajo las botas con betún del ciudadano común. Lima 19, llueve con desprecio. Las gentes aún confunden su valía con un precio. No perder es la victoria para el recio. Necios buscan la circunferencia del trapecio. Pienso, antes o después existo. Chambeo a lo bruto, por lo que como y lo que he visto. Describo lo que he visto e insisto. Si lo dudo no la hago y duro menos de lo que resisto. Santa Anita, 6 de la mañana. Lunes laboral marca el inicio de semana. Almas en manada abarrotan los paraderos. La suma de todas las fuerzas igual a cero. Algunos negativos van con ojo agudo, porque la pendejada manda y pierden los cojudos. Algunos dicen que el que quiso pudo, y de esas historias felices no manjo a ninguno. Pero no hay roche si el barrio desconoce. No tenemos roce, solo arranchones de noche. Así nos ven y así nos tienen, como atunes. Te das cuenta tarde cuando cuelgas los chimpunes. El mundo es una fosa común, cuando el tiburón te quiere convertido en atún. En las colmenas agonizando bajo los zooms, bajo las botas con betún del ciudadano común. El mundo es una fosa común, cuando el tiburón te quiere convertido en atún. En las colmenas agonizando bajo los zooms, bajo las botas con betún del ciudadano común. Los ebrios en los bares, las putas en las calles, los buitres en los postes esperando que resbales. Afuera todos valen, si brillan los metales, cuando no, el sol no seca como vegetales. Cuerpos en costales, diamantes en hostales, de sanatorios mentales llegan las postales. Mi soledad a través del cable, un río del que hablaba ya Westfalen cuando el rap era un vejamen. Dejar que los gatos se amen, sus patas en mi calamina haciendo música pa' los que saben. Pa' cuando las cuentas no salen y no hay pa' los payares, las calles se convierten en camales. Con sangre juegan carnavales, se pierden los cabales, el nuevo dios en todos los canales. La cura pa' todos los males, sacar la abeja reina punta de plomazos de nuestros panales. Dum, dum. El mundo es una fosa común, cuando el tiburón te quiere convertido en atún. En las colmenas agonizando bajo los zooms, bajo las botas con betún del ciudadano común. Dum, dum. El mundo es una fosa común, cuando el tiburón te quiere convertido en atún. En las colmenas agonizando bajo los zooms, bajo las botas con betún del ciudadano común. Questi erano due classici del rap peruviano. Ci vuoi dire due cose su queste tracce? La prima traccia mi sembra che l'abbia prodotta tu stesso, giusto? Fundamento Under? Fundamento La prima sì, la prima è produzione mia, mio hermano de mi gruppo, di Ugello Caso, e la seconda è di un gruppo che si chiama Neblina Rancia, que tiene uno de los MCs más antiguos allá de Lima, de un grupo llamado Teoremas, que le dicen Teórico. Okay, la prima prodotta lui effettivamente con suo fratello Super di Crew, Fondamento Under, e invece la seconda è Neblina Rancida, un altro tema fondamentale. Ok, abbiamo una domanda. Questa è bella lunga data, quindi prendi un bel respirone. Prendi un bel respirone, perché è una domanda mia, ma anche di Pulsar e di Testa Mala. Allora, ci siamo messi in tre per fare questa domanda, no? È una cosa. È una cosa. Allora, io ero curioso, cioè, di sapere in che maniera è vissuta la cultura hip hop in Perù, diciamo. Perché nel nostro paese, diciamo, ormai tutti, diciamo, gli adolescenti, i giovanissimi ascoltano rap, ma non si interessano, diciamo, alla cultura. E diciamo, se nel vostro paese, appunto, è vissuto ancora in maniera politica come una voce del popolo, ecco, quindi portando un messaggio o portando la voce di persone che voce non ne hanno, e se ci sono realtà simili a questa dove ci troviamo, quindi posto come ZAM, quindi autonomo in maniera politica, quindi autonomi in senso politico e anche in senso musicale, come anche produzione di musica ed eventi. Ti gusta la trap? No, giusto, entendi un poco de si el hip hop iba como también como herramienta política, como eso en forma más social. Y sí, o sea, hay mucha gente trabajando en marchas, trabajando en colectivos para lograr algo, ¿no? Para llegar a la meta juntos. pero también por ejemplo estoy al tanto de todo lo que pasa en política, en todo, pero al menos mi estilo es como demostrarte lo que pasa en la calle en el mismo momento, ¿no? Que en la política puede pasar algo, ¿no? Ok, sicuramente anche in Perù ci sono questi tipi di realtà e lui comunque è sempre attento alla tematica politica, quindi sa quello che succede, si informa da questo punto di vista, ma il suo stile è proprio più quello di dirti quello che succede nella realtà della strada, quindi raccontarti la verità di quello che è il momento attuale. Ok, quindi lui parla di questo e quindi il suo rap è concentrato su questo tipo di tematiche di storytelling in generale. Claro, no ocupas en sí, pero sí hay lugares colectivos que se arman y sí trabajan en colectivo para trabajar, para producir, para hay mucho graffiti, hacen murales de la gente, van a barrios y los pintan, y llenan de color, ¿no? Y me ha sorprendido mucho esta ocupa, están muy organizados y eso yo me voy a llevar también como visión allá para mostrarles que Come si può lavorare serio, no? O sea, mucho respeto per ustedes. Ok, ha detto che sicuramente ci sono diverse cose che possono essere simili a questa, ma non esattamente così. Quindi ci sono dei posti in cui si auto-organizzano, comunque ci sono, fanno iniziative, per esempio murales per la gente, e via dicendo, però così come l'ha vista qua non ce ne sono esattamente così. E anzi ha detto che prenderà ispirazione da quello che sta vedendo qua, dalla vostra organizzazione, e vi fa i complimenti perché è una cosa che veramente apprezza moltissimo. Vabbè, ringraziamo per il complimento. E vabbè, non è tutto orologio che luccica in realtà, perché siamo. Però ci proviamo, dal basso ci proviamo. Quindi non vogliamo menarcela, però un po' raccogliamo. Un messaggio internazionalista. La prossima traccia è. Este temita è di un gruppo già che sicuro alcuni hanno ascoltato, chiamato Rapper School. El tema se llama Pase lo que pase, es Vieja Escuela y mucho respeto allá en Perú. Ahí para ustedes. Pero al día siguiente lo recogeré en la morgue. Se cuentan horas, días y también los calendarios. Primo, nadie sabe si caerás en cementerios. Como mi amigo Mario que jugaba a ser sicario. Hasta mató a su hermano y lo tomó como algo serio. Se cuentan horas y así también las estadísticas. Para la policía un expediente más en balística. La lista aumenta y también el desenfreno. Como aquel niño que golpeado en el hogar se siente ajeno. Le pone freno y toma la decisión, sacando la pistola de su padre en el cajón. Su lápida ahora pinta: hijo mío, te queremos. Si la muerte nos permite, algún día nos veremos. Pase lo que pase hoy, siempre con la mente tu recuerdo en mi corazón te llevaré. Para donde quiera que yo voy, pienso diferente. Es que el amor de ahora está presente. Pase lo que pase hoy, siempre con la mente tu recuerdo en mi corazón te llevaré. Para donde quiera que yo voy, pienso diferente. Es que el amor de ahora está presente. ¿Dónde van? ¿Dónde? Dime dónde van las almas que se pierden en el camino de la vida. ¿Dónde van? Dime dónde van. Se detienen pulsos y otros por impulsos para el diván. Penas que se cuentan en la esquina. En la esquina. Con la neblina que la muerte se avecina por la acera. Joven estudiante muere en una balacera. Otro lío de pandillas que en el diario aparecerá. La vida se desaparece como el humo de un cigarro. Loco disparando desde un carro. Otra vida que se pierde bajo el cielo gris. No se puede ser feliz cuando gente muere en un desliz. Como Marco que soñaba con ser narco. Viajar en barco y olvidarse de las penas en su cuarto. Pero cada vez que parcha ya se siente harto. Y su corazón marchito marcha para el infarto. Almas en oferta como Berta. Se acuesta en una cama pero en otra se despierta. Son 14 años y ya perdió la niñez. Se desaparece un viernes y no regresa en dos o tres. Coleccionando amores, sin importancia los rumores. Malos menores, sin temores y sin valores, deambulando en cada city, con el futuro a convertirse en un graffiti. Pase lo que pase hoy, siempre con la mente tu recuerdo en mi corazón te llevaré. Para donde quiera que yo voy, pienso diferente, es que el amor de ahora está presente. Pase lo que pase hoy, siempre con la mente tu recuerdo en mi corazón te llevaré. Para donde quiera que yo voy, pienso diferente, es que el amor de ahora está presente. Yeah. M-Seco en Milano. Desmadre puro. U-G-L-O-C-A-S-O. No pretenda cambiar la vida que yo llevo. No pretenda cambiar con un género nuevo. No pretenda cambiar con ese fuck dinero. No pretenda cambiar, nah. Dame machola, yendo goma, comprando pila por las esquinas. Miradas chinas, pisando rirla. Directo en Disney, en el audio con tequila. Diría dónde, pero lo malo no se ventila. Camino a Kika pa' comprar vinilo. Sacando rampa y cortando oído. Gastando sueldo en buenos pistos. Cambiando noche para hacerme el vicio. Coleccionando cassettes y discos. Me compro un paso y me tomo el quinto. Sigo viviendo en un laberinto. Rumba como sofrito. Siempre listo para los conflictos. De litro en litro, agradecido por las veces que pasé infinito. La misma merca, los mismos trajes. Olor a hierba por el pasaje. Los mismos sapos, la misma base. La misma mami, corazón madre. Yo sigo fiel a este ritmo grave. Tú no me paras nada, no digas nada. Si quieres la radio, piso cuadras como mi casa. En serio, en serio, con la posgrasa. Haciendo verde, se encuentra lanzando el aja. No pretenda cambiar la vida que yo llevo. No pretenda cambiar con un género nuevo. No pretenda cambiar con ese fuck dinero. No pretenda cambiar, man. Oye, no pretenda cambiar la vida que yo llevo. No pretenda cambiar con un género nuevo. No pretenda cambiar con ese fuck dinero. No pretenda cambiar, que lo empezamos de cero. ¿Dónde quedaron? Vieja radio, los grupos raros, las calles grandes, los tuyos largos, los cambios, las timber, la vieja escuela, ido perdiendo y dejando de lado como a la abuela, va por mi causa, caído en calle, que siempre en vida fueron al jaque, verme dos cuatro pa' mis tipos, es clandestino y así yo vivo, con pistas sin creyes, mismo estilo, a mi manera son, perfil bajo porque en casa espera, maldito el barrio por mi polera. Los que suben mis escaleras, va por galeras, por la calera, noches enteras pintando aceras, amor para toda esta batería, los que prendían puta vacía, los que sabían que cuando había, tenían, los que curaron heridas, uno por otro daría la vida, así me dice entre aprendices, manteniendo raíces, no dame falta, siempre me dicen que me buen cholo. Me muevo solo, de polo a polo, dejé graffiti con la topolo. Oye, gracias a Beauty por sus canciones, a Jero Sam por las colecciones, a los antiguos, los del principio, los que lo hicieron cargando un ritmo. Respeto a todo y más respeto al equipo. Y no pretenda cambiar la vida que yo llevo. No pretenda cambiar con un género nuevo. No pretenda cambiar con ese fuck dinero. No pretenda cambiar que lo empezamos de cero. No pretenda cambiar la vida que yo llevo. No pretenda cambiar con un género nuevo. No pretenda cambiar con ese fuck dinero. No pretenda cambiar. Yeah, MC Colima, Perú. L'abbiamo apprezzata o no? Yeah. Oh no! Oh shit! Bello, bello, anche il beat mi piace molto. È un grande classico. Sì, l'ha fatto Mr. Data, truffatore. È una borracera, sì, no. Sì, sì. Tutto quello, quattro personaggi che ci hanno detto. Sì, sì, Data, sì. Data me lo vendio. Te lo guarda, da tipo in casa. Guarda, ti posso anche dire che disco è. È il B-side di Envy di Fat Joe, è Firewater. Big Pun, Fat Joe e Raekwon the Chef. Featuring Mr. Data, Prod Alias, se non mi ricordo male, ma in Allucina Record, cioè Alias è il rapper, cioè è Mr. Data quando va a vivere in America. No. Quindi connessione latina. Tra l'altro è proprio giusto dal mio album preferito di Fat Joe, Jealous One Sam. Ti senti un po' tirato in causa. Data mattatore nel tiraggio in mezzo anche alla radio. Mota voi. Oh no. Allora. E allora, questa è non pretendan cambiare. Non pretendete di cambiarmi e tra l'altro non pretendete di cambiarmi. Esatto. il nostro amico Omar aka SHB voleva sapere il titolo perché lo ha gasato molto. È un nostro amico, nostro compagno, che è uno dei più fedeli appassionati ascoltatori di questo programma, e ha chiesto appunto il titolo perché era proprio e ahí justo he hecho lo que les digo, o sea, ese tema está en YouTube pero con otro beat, entonces acá como que le he metido con el beat de My Enemy, que es un beat que me gusta mucho, pero es lo que les digo, o sea, siempre me gusta cambiarlo porque a veces uno se aburre de algún tema, de tocarlo tantas veces, que yo prefiero cambiar el beat porque no aburre la letra, aburre el beat, ¿no? Sí. O sea, como que a veces satura. Sì. Ha detto che appunto lui, come diceva anche prima, è sempre questo qua, un tema che ha fatto su questo beat differente del solito, perché appunto gli piace cambiarli, perché non fare appunto, diciamo, far sentire un tema troppo diciamo ridondante, quindi ti potrebbe anche poi stancare alla lunga, e invece gli piace cambiare beat e quindi rinnovare poi l'energia di quello che è la sua canzone. Ok. Ho anche capito che si trova su YouTube con un beat appunto differente. Io tra l'altro apprezzo molto questo fatto di scegliere strumentali sempre diverse, fare versioni sempre diverse, perché insomma anche a me è sempre piaciuto, diciamo, scegliere una dimensione live o particolare, diciamo un po' mixtape culture, claro, diciamo la cultura del mixtape, della radio. Everywhere mixtapes. Un po' come quelle sessioni infinite di Sean Price negli studi della radio. Sean Price è il rapper preferito di Gigi. Quindi Elta Skelta, esatto. Nocturna. Noi una domanda ce l'avevamo, l'ho anticipata a Data prima, e insomma la rifacciamo. Tu te la ricordi? Non si ricorda nulla. Non si ricorda nulla. Ok, allora volevo chiedere: praticamente nel nostro paese, in Italia, il rap ormai è diventato estremamente pop. E per essere ascoltato, per essere arrivato a questo punto, quindi molto popolare, qualche anno fa tanti rapper che avevano contratti major hanno dovuto fare, diciamo, dei pezzi all'italiana. Mi spiego meglio. la musica italiana è melodica, come si potrebbe dire la cumbia, anche se è meno ballabile, parla di temi solo d'amore, diciamo, ed è diversa dal hip hop, soprattutto boom bap, che è molto duro, che parla di strada. Nella musica italiana non c'era tanto questo tema, diciamo, di strada. E diciamo, tanti rapper con contratti major hanno dovuto fare delle tracce all'italiana per passare in radio con cantanti italiani, quindi che non c'entrano nulla con l'hip hop e con la cultura hip hop, e per avere un pubblico più ampio, per farsi conoscere. Quindi diciamo siamo arrivati a un punto tale che Sanremo, che è il top della canzone italiana, diciamo, è un evento che si tiene ogni anno a febbraio, ormai ospita quasi solo rapper che però non fanno più boom bap, non fanno più hip hop, ma fanno una musica simile a quella italiana, però un po' whack, diciamo, un po' indebolita. Vamo a sapere se per farsi ascoltare in Perù c'è questa cosa, cioè per avere un pubblico più ampio, o se, diciamo, la gente apprezza, diciamo, l'hip hop, diciamo, nella sua forma più originale. Por lo que entendí un poco, allá también se escucha, por ejemplo, música clásica allá de Perú, que es ponte la chicha, la cumbia, los boleros, la salsa. Yo sampleo mucho bolero, mucha salsa. Eso es lo que se escucha más en las radios. En las radios no hay hip hop. O sea, seguro una vez al año pasa en la radio una canción de hip hop. No hay mucho hip hop allá. La gente lo que hace es bailar salsa, bailar cumbia, música de fiesta, ¿no? Pero no es que haya mucho hip hop. Yo lo que quiero, justo hablar con Data y si podemos conseguir un par de discos de samples, de algo de acá, de la música italiana, como para llevarme y escucharlo y producir algo, producir alguna pista o producir a alguien con una canción de acá, ¿no? O sea, sería muy chévere. Igualito, seguro en algún momento van a escuchar pistas de Data que son de música peruana, porque estoy seguro que lo tiene ahí. Ovvio, microbio. No, ha detto che anche lì, diciamo che la situazione del rap in Perù, effettivamente, per quanto riguarda le radio, è molto dura e difficile. E quindi dice, magari c'è tanto che una volta all'anno passano un pezzo rap in radio, e quindi effettivamente non c'è questo tipo di mescla che devi fare, appunto, diciamo, marchetta per passare comunque in stream. C'è tanta, come si chiama, quello che fanno loro, quello che fa lui in particolare, e anche prendere per esempio tante ispirazioni da quelli che sono la musica classica, come appunto la cumbia o anche il bolero. Lui sa un campione tanto di questo, infatti poi ha detto mi piacerebbe poi anche comunque capire qual è la musica di quella classica italiana, per poi incominciare anche a campionare la sua maniera, quindi non fare appunto il marchettone, ma in realtà andare a campionare quello che appunto magari dischi classici, per poi appunto fare produzioni là in Perù, e magari appunto poi ascoltare noi dall'Italia qualcosa prodotto là in Perù, ma con i campioni di qua, capito? Quindi fare questo intercambio culturale è molto alla ricerca di questi tipi di campioni, e è sicuro che appunto poi possono uscire cose molto interessanti, così come ho detto che per esempio anch'io sono sicuro, che ho fatto anch'io cose con roba di là, effettivamente così, perché è molto interessante provare a reinterpretare magari dei classici per un chiave appunto boom bap, e quindi è un po' quello che vorrebbe fare anche lui, insomma, intercambio di culturale dal punto di vista musicale. Quindi diciamo il pop originale al 100%, e sì, tra l'altro confermo la collezione di dischi di Data, non so se hai potuto vedere dischi, io gli ho visto dischi che erano segnati con le tracce a penna, cioè, quindi vabbè, cioè, ha un canale tutto suo, quindi anche estremamente originale. Vediamo se riusciamo a fare il percorso al contrario. Vogliamo introdurre la prossima traccia? Questo es un tema di un gruppo chiamato Fucking Clan, si chiama Real Hip Hop Perucho, che allá los peruanos no dicen peruchos. Acá creo, ¿cómo le dicen? Tano. Tano. Allá los peruanos dicen peruchos, ¿no? Entonces, el tema se llama Real. Chao. Chao, mamá, saludos en radio. Thank you. De real hip hop perucho se mantiene, nadie lo detiene. FKC al palo como un pene. Imagina lo que viene mientras suene. Sexo, dinero y droga es lo que tiene. Con sonido muerte a rappers en las sienes. Pintar con graffiti en el tren la ilusión del nene. Mientras sueña y viene no lo retiene. A lograr el street graffitiar cualidad que nadie sabe dónde proviene. Representar en su ser necesidad como droga de pintar calidad que retumba y suene. Mientras con el bombing cars en Europa revientan los trenes. Policías con la corrupción se entretienen. Por las calles corruptos es pecado. Quienes son plebeyos nadie reza por ellos. Yo. Pirañas con rosarios en los cuellos. Gilet en lengua, pantalones por los suelos. En necesidad convertida en delincuencia. En sobrevivencia quienes son los buenos. Vino con clas, máscara de gas, fat caps. Entra en la escena al cars, one, nunca te rindas más. Palomilla que la conche suma. Pero no como el yello. Con mi letra te llegó el destello. De real hip hop perucho se mantiene, nadie los detiene. FKC está al palo como un pene. Imaginas lo que viene mientras suena. De real hip hop perucho se mantiene, nadie los detiene. FKC está al palo como un pene. Imaginas lo que viene mientras suena. Hoy no brilla sentado en la novena milla. Puedo ser más ladilla y palomilla que toda tu pandilla. Soy de raza pura oscura como la natilla. Soy de duro pulso más caliente que tornilla. Sabemos que en la calle la noche no es como el día. Sobreviviendo madrugadas de narices frías. De flows callejeros que se disparan sin pista. El ilegal artista trazando tas con fantas. Mejora los estilos rígidos como los jazz. Explora como indiana entre la jungla de Lima. Viene patrullero cochino a jodernos la vida. Entre cague risa, pintando hasta con tiza. Estilo de campana que de la esquina te avisa. De real hip hop perucho se mantiene, nadie lo detiene. FKC está al palo como un pene. Imaginas lo que viene mientras suena. De real hip hop perucho se mantiene, nadie lo detiene. FKC está al palo como un pene. Imaginas lo que viene mientras suena. La calle canta con decoración de aerosoles. De manera ilegal son los sonores. No hay mejores ni peores. Lima 13 cogotero de los agujeros. Van pulseando para salir de agujas. Mi sonido te hipnotiza, te embruja. Llevo fondeados onzas en las bolsas. Yo la cargo, la mezcla de lo dulce y lo amargo. Cancela para evitar embargo. Nocturnas noicas, chachando como incas. Acá no entra la mancada, no pasa nada. Lo soluciono con una llamada. Porque lo ilegal termina siendo lo real. Hip hop perucho se mantiene. Nunca evitarás que el fucking clan suene. De real hip hop perucho se mantiene. Nadie lo detiene. FKC está al palo como un pene. Imaginas lo que viene mientras suena. De real hip hop perucho se mantiene, nadie lo detiene. FKC está al palo como un pene. Imaginas lo que viene mientras suena. Mientras suene, escucharás lo que contiene. Oye hijo de puta, aparta tu trasero que el oscuro con el facta suene. Palomillas vienen, robando en las calles se entretienen. La policía sigue nuestros pasos por pintar los bienes. Pues que chupen pene. Que en el barrio no se mete. De los bloques la gente te agrede con un cohete. Mete y saca que de los paquetes que te metes. La patrulla haciendo bulla por billete. Y esto no es ninguna sorpresa, confiesa. Parte policial sobre la mesa. Ponte alerta, entran moscas en boca abierta. Mira, piensa, si es que te avientas el micro abierto y la pista lenta. Y si lo cuentas, pues lo lamentas. Ya lo sabes. Pero en the house, yeah. La sazón en seco. Desde la vieja calle TPL, yeah. Tengo la sazón. Sabes quién son, bienvenido a la función. Ande con sin promoción. Al oyente del yermo, protegido del barbón. Y por mi gente, yo no quiero tu reacción. No te comparte el mundo, cada quien su vacío. Vivo la vida como en tiempo con pelón. El rap es lo que pasa. Trata de ficción, tuve errores en la vida y una que otra intervención. Se queman solo con grasita y con carbón. Otros ganan la vida visionando de salud. Me hablan de ropa cara por su falta de atención. Yo crecí con la cachina, con soul y con cinturón. No es variada, pero saco el La vida me enseñó que todo tiene un porqué. Si es que tú te quieres ir, espero que te vaya bien. La vida me enseñó que todo tiene un porqué. Cada vez que pierdo un 20 me encuentro uno de 100. Me enseñó que todo tiene un porqué. Si es que tú te quieres ir, espero que te vaya bien. La vida me enseñó que todo tiene un porqué. Cada vez que pierdo un 20 me encuentro uno de 100. Gente que conozco no me quiere ver brillar, porque piensa que si no son ellos nadie será. Salgo tranquilito buscando con quien brindar, lo que suena como encinta pero en la era digital. No hay temores, lo perdí hace mucho atrás. Ahora no pienso en pasado, solo quiero duplicar. Sé bien lo que estuvieron, lo que dieron su lealtad. Están entre mis planes, no los voy a defraudar. Mamá linda, te prometo que al final nos reiremos de los tiempos cuando no había pa' comprar. Yo paso por todo y nada te pude contar. Para ti sigo siendo el hijo que salió del hospital. Hasta casualmente cuando algo te vaya mal, porque el camino corto no nos viene con manual. Donde piso hay causas pa' jugarla de local. Primo, tengo lo que quiero y los demás opcionales. Que me enseñó que todo tiene un porqué. Si es que tú te quieres ir, espero que te vaya bien. La vida me enseñó que todo tiene un porqué. Cada vez que pierdo un 20 me encuentro uno de 100. La vida me enseñó que todo tiene un porqué. Si es que tú te quieres ir, espero que te vaya bien. Me enseñó que todo tiene un porqué. Cada vez que pierdo un 20 me encuentro uno de 100. Pero bien underground. Yeah. Pusher, UG Locaso, Seco. È bella questa dimensione live, eh? È bella questa dimensione live. Tu devi sapere che noi abbiamo iniziato nel 2020 e quindi altro che dimensione live. Qua eravamo proprio bloccati per il Covid, quindi il mondo è su una fossa comune quando il tiburon ti chiede combattido in alto e la scolvenassa. Quindi era l'opposto del live, l'opposto, cioè stavamo insieme ad altri tramite la radio, ma fare la jam in radio non l'avevamo mai fatto, e devo dire che è una bella energia. No, espero, espero sigamos en contacto y que la próxima vez que yo sé que va a haber hacer algo acá en el Ocupa, que me ha gustado mucho. Vuole continuare a tenersi comunque in contatto appunto con voi ragazzi di ZAM, e magari speriamo magari che per la prossima volta che viene organizzargli anche qualcosina direttamente qua, in modo da appunto da continuare la connessione. Volentieri, volentieri. Avevamo un'ultima volentieros. Penso che si dice mucho gusto? No, con gusto. Molto piacere. Ci ho provato. No, non l'ho mai studiato lo spagnolo. Ti ricordi la domanda data che volevano sapere? La faccio io, la vuoi far tu? Ok. Allora, la domanda appunto del buon Maurizio Testamala era quanto sia diffuso, diciamo, il fenomeno delle gang, diciamo, in Italia si parla molto, diciamo, a livello di gang, e viene ripreso il fenomeno nel rap, ma molto spesso, diciamo, sono anche, diciamo, fenomeni, diciamo, montati, sono finti, diciamo, finte gang. Quanto, diciamo, le gang di strada siano legate al mondo dell'hip hop e della musica rap? E se i nuovi, nuovissimi, diciamo, i teenagers appunto in Perù spingono, diciamo, su questo tema qui, diciamo, quindi con argomenti relativi al mondo delle gang, quindi droga, violenza, o se è un qualcosa di non molto seguito? Santa Anita, 6 de la mañana, lunes laboral marca el inicio de semana. Almas en manada abarrotan los paraderos, la suma de todas las fuerzas igual a cero. Algunos negativos. Sí, allá hay mucho, o sea, hay todo tipo de hip hop, rap social, rap, gangster rap. Pero creo que es la gente que recién está conociendo la cultura y todo, ¿no? Porque yo creo que la gente que ya vivió solo le quiere decir a la gente no lo haga. O sea, igualito, al menos yo en mi estilo de hip hop no te voy a hablar de drogas, no te voy a hablar de esto, te voy a decir, bueno, si lo agarras te va a pasar esto, no quiero decirte no lo hagas, simplemente te voy a decir, bueno, hay gente que lo hizo y gente que ya no quiere volver a hacerlo, ¿no? Ok, sicuramente in Perù ci sono appunto queste tematiche, i ragazzi comunque le affrontano, ma è una cosa che lui per esempio non fa nei suoi testi, e anzi parla di quello che magari potrebbe essere la droga, ma ti dice semplicemente se lo fai ti succede questa roba qua, quindi non è che ne parla, che lo usa come argomentazione come appunto fa, che non fanno magari i ragazzi di adesso, ma nel suo caso appunto ricorda del suo rap, lo usa magari come esempio per farti capire cosa succede senza andare bene, ma semplicemente succede quello, e quindi te lo dice così com'è. Ok, ok, ok, è stato esaustivo come... Io chiedo sempre, faccio il sondaggio. Faccina sorridente del buon Testamala. Allora, io direi andiamo magari un'altra traccia e poi andiamo in chiusura. Les canto otro. No, de cobre en cobre, pum, es abajo. Esa es. De cobre en cobre. Ese sample lo saqué de un disco 45 de un cantante llamado Sandro. Y el tema se llama, no, el tema Te Propongo. Lo sampleé y suena eso. Quindi, ¿l'hai prodotta tú? Sí, producido por mí. Diciamo, a impronta, forse ho capito, l'ha prodotta da un 45 giri. Di un cantante storico che si chiama Sandro, giusto? Claro, sì, sì, sì. E quindi anche qui un inedito. Già entiendo. È un inedito. De cobre in cobre. Vamos. Te propongo. Me recuerda a los business, recuerda las andanzas, snitches, rest in peace. No soy de los que quieren lucir. Acá siguen discos como antes del 2000, de la Lima capital, donde beben en barril. No saben quién es quién porque tienen de civil. Todos son mis causas, pero tienen su carril. Yo no me meto en bocas ni comento del reptil. Nikes and dice vienen a seducir. Y yo pongo los rechazos porque sin escribir. Rap up, siempre digo. Aprendí de la vieja escuela, se habla de un bien o Fred Prince. Crecí con quienes no te aguantan una, ahogando sin quimeras, dando fe a la pluma. Ay, pensando como de sol a luna, de cobre en cobre, pero todo suma. Causa, crecí con quienes no te aguantan una, ahogando sin quimeras, dando fe a la pluma. Pensando como de sol a luna, de cobre en cobre, pero todo suma. Yeah, caleto pa' que no conoce. Data Boy in the house. Exclusivo. Che bomba a fare le jam. Siete contenti, ragazzi? Il divano esulta. E noi diciamo siamo in chiusura. Gigi, volevamo fare il punto, diciamo, su appunto i dischi fuori, il tour e eventi prossimi, giusto? E annunci vari. Sì, Sí, ahorita acabamos de soltar hace 15 días el disco de mi grupo, DPM, The Peruvian Motherfucker. Está en todas las plataformas, pueden buscarlo Yuji o Mseco, DPM, ahí les va a salir. Ahorita este sábado toco en Barcelona, estamos ya cerrando la gira en eso, ya el lunes vuelvo para Perú. Y se viene un disco mío el año que viene, en febrero, marzo, el disco se llama La Sazón. Así que todos atentos al Instagram, Mseco, M-S-E-C-O. Va tutto bene. È uscito il suo nuovo disco DPM, lo potete trovare dappertutto su tutte quante le piattaforme, quindi siete poi attenti ai link che vi lasceremo in descrizione, andate a cercare tutte le sue ultime uscite e anche quelle che ha fatto comunque prima. Adesso il tour sta per volgere al termine, questo tour europeo, farà ancora un'ultima data a Barcellona e dopodiché poi tornerà direttamente in Perù, però comunque ci sono altre sorprese in arrivo, quindi continuate a seguirlo su Instagram, anche questo lo lasciamo in descrizione, seguite il suo gruppo e vedete che scoprite presto robe nuove. Ok, quindi come vedete Data è prudente, non si sta scoprendo sulle produzioni che sta facendo per Mseco, top secret. Il misterioso Mister Data. Ok. Allora, piccola anticipazione, stiamo facendo comunque delle tracce insieme, quindi comunque nel futuro sentirete qualcosa anche che arriverà prodotto in questi giorni in cui è rimasto qua a Milano. Quindi state attenti anche a questo. Seguito anche Mister Data da Tavoglio Underscore. Grazie. D'accordo. E allora, quindi tenete d'occhio tutti i canali musicali e canali social. Noi a livello invece di annuncio eventi, diciamo, extra musicali, abbiamo due parole da dire ancora, giusto Gigi? Sì, a parte la serata che ci sarà sabato, a cui vi invitiamo tutti e tutte, con Underground Tales, Super Special Edition con Naturalezza Suprema direttamente dalla Colombia, e quindi un'altra situazione inedita per noi, quindi venite tutti e tutte sabato qui a ZAM. E niente, poi non ci sono ancora iniziative ufficiali da promuovere, però volevamo invitare tutti e tutte, quelli che ascoltano in diretta, quelli che ascoltano il podcast, a rimanere sempre sintonizzati su ciò che sta succedendo in Palestina e a partecipare alle iniziative, provare a dare come si può il proprio contributo per questa barbarie che sta accadendo e per sostenere il popolo palestinese. E niente, Nino, fai tu come al solito la chiusura finale della puntata, che non me la sento. Allora, io devo dire, è stato un piacerone fare, un grande piacere fare, si potrebbe dire, la prima jam per quanto riguarda il nostro programma, appunto in presenza. È stato bellissimo fare questa prima puntata internazionale e, diciamo, confrontarsi su quello che è l'hip hop, che a mio parere, insomma, io sono abbastanza fanatico, diciamo, molti dicono è la più grande cultura vivente, cioè perché portata, appunto, vissuta, la più grande cultura a livello mondiale, e nel suo 50° anno io sono personalmente felicissimo di aver fatto questa jam, questa cosa. Vuoi dire qualcosa? Che questa cultura non ha inventato nulla, ma ha reinventato tutto. Molto rispetto. We love! Raga, invece un'ultima cosa volevo dirla anch'io, volevo ringraziare innanzitutto Bezzam come al solito per lo spazio, per l'amicizia, come sempre si dimostrano dei grandissimi ragazzi e persone umane, e soprattutto anche volevo ringraziare Seco per essersi prestato in tutti questi giorni a tutte le nostre pazzie e a tutte quante le nostre iniziative, quindi un grazie a tutti quanti, grazie a voi che state ascoltando, che condividete questa bellissima diretta radio, e ci sentiamo nelle prossime, ci vediamo nei peggiori bar di Milano. Oh. hip hop peruano in the house. Sí, se salió la mar brava. García Calderón, la 6, el EPQ, pescado fresco. Hey, yo. Niño maraña busca nieve. El under quiso que me quede cubierto de lodo. El que puede, puede. No preguntes cómo, siente cómo llueve. Tú tu pene, Guns and Candy, Halo 7, cheche. Mamá calle, no me quiere guacha. Me dio la mano para hacer mi ficha. Picando roca, cenando tacha. La esquina es gloria y a la vez desdicha. Se parece a la muchacha, touché. Venos y su ostra, terra nostra, me postro. Ellos astro, nosotros maestros. Casne tu petra, uno, dos, tres, patru, shin si ya se chapte, si no entiende capte, bambino escape, que no te atrape, la luna cubre y el sol nos mira brillar, de tanto que caímos extrañamos tropezar, por todo lo que perdimos nos tocó multiplicar, maná.